4 mattino. Un po' di tasse. Dobbiamo pagarle, mi creda. Tasse? Ma signore, ma che sta succedendo qua? Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Catasso, non se ne pagano, caccio caccio. Era il mitico albanese e io saluto salmonato oggi il grande Oscar Giannino. Gattone? Ma salmonato in che senso, scusa? No, vedo un colore salmone, non so se è la telecamera. No, ci deve essere qualche filtro nella telecamera, giuro. Se che non sono salmonato, esatto, non sono salmonato. Cari ascoltatori, possiamo protestare. Sai che c'è un nostro ascoltatore che si chiama Gennaro che propone di non chiamarli più radioascoltatori, ma radiointerattori, perché mi ha scritto, oh, mi ha detto bello. Perché interagiamo noi, gli ascoltatori sono passivi. Allora Gennaro, io lancio lì, vediamo quanti sono favorevoli a questo radiointerattore, però vediamo. Interattori, buongiorno. Allora, volevo solo un parere, perché è molto controversa questa cosa dei sacchetti di plastica. È stata introdotta una norma per cui i supermercati, sto leggendo per esempio La Verità, per il recepimento di una normativa europea dovranno mettere dei sacchetti biologici. Fin qui tutto bene, ma è stato previsto anche che in questa norma non possano regalarli. Li devono far pagare obbligatoriamente 10 centesimi, al punto che esulta Asso Bioplastica dicendo un grande salto di civiltà. Ma io dico, se serve il sacchetto ecosostenibile, benissimo, ma perché non ce lo possono regalare? Perché lo devono pagare? Allora, per questo La Verità e anche Il Giornale dicono che si tratta di una tassa. Tu che sei il più grande esperto di tasse, è corretta questa dizione? È un'imposta di scopo? Non lo so. No, è l'improprietà di un paese in cui la parte pubblica crede di dover fissare dei prezzi. Questo c'è dai tempi di Diocleziano, è una tentazione permanente. Sì, beh, il famoso calmiere. E che cos'è il calmiere? È lo Stato, la mano pubblica, che invece di lasciare al mercato la libera formazione dei prezzi, che sono gli unici segnali senza di cui il mercato non esiste, ecco, dice no, il prezzo te lo stabilisco io. In questo caso un prezzo minimo di remunerazione per garantire. Ma sai quanto Cuba? E questo mi ha stupito questo calcolo, spero che sia falso. 400 milioni di euro annui. Dunque, nelle previsioni, tu come nelle sai, bisogna fare la tara. Le metteranno un po' larghe. No, sì, ma sì. Non può. Di solito questi sono, si rivelano dei moltiplicatori folli che nella realtà poi raccolgono pochissimo. Ah, ma adesso ti faccio ridere, Oscar. Le sanzioni per chi viola questa norma, sì. Magari se porta il sacchetto da casa oppure il supermercato e te lo volesse regalare, multe da 2.500 a 25.000 euro, elevabili fino a 100.000. Mettete una 100.000 euro, ma figurati. Capisci, però attenzione, questo che a te sembra punta di paradosso, no, a me sembra una follia. Ecco, è un buon esempio della follia dello Stato. Che ma poi non c'è proporzione. Allora sentiamo sul DEF, un po' che non sentivamo un rappresentante del 5 Stelle. Buongiorno Carla Ruocco, benvenuta fra noi. Buongiorno a tutti, ascoltavo con interesse la follia illustrata. Faccia le barricate, perché la multa da 100.000 euro per il sacchetto da 10 centesimi, no, non si può sentire. In realtà forme di intervento dello Stato nell'economia per correggere esternalità negative di determinati prodotti possono anche essere, sì, sono assolutamente da concepire. Sì. Il problema è che qui è tutto rovesciato. Oh. È che lo Stato interviene contro quei prodotti che invece dovrebbero essere incentivati. Però vabbè, questo discorso veramente è ampio. Ma noi siamo contenti che si facciano dei passi avanti, però ci deve essere una proporzione. È interessante questa ascoltatrice che dice: io ho un ascoltatore, io ho 2-3 sacche in tessuto, uso sempre quelle e la sportina in plastica gliela metto in bip, non si può dire. Senta, voi che cosa farete su questo documento, su questa manovra? Cioè come vi porrete? Barricate, riformismo, noi, emendamenti? Questa manovra è assolutamente taglia fuori i giovani, tende a ridurre col tempo l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo, non prevede un piano di investimenti serio in un paese che vuole realmente sviluppare e crescere, è ingabbiata ancora una volta nei vincoli europei, per cui questo paese continua ad avere e continuerà ad avere una palla al piede. C'era un interessante articolo peraltro stamattina di Oscar Giannino, che ho letto con molto interesse, che riguarda... Ma è un ghostwriter che gli scrive, non è lui. Gli investimenti sui cervelli, la meritocrazia, cioè qui si tratta di avere un altro proprio profilo, un altro modo di vedere una prospettiva di paese. Invece questa manovra è totalmente ingabbiata nei vincoli europei, è fatta, prendiamo soltanto dal punto di vista fiscale, prevede un recupero di evasione, ma poi quando vai a vedere in che cosa consiste, si tratta soltanto tendenzialmente di condoni o condoni mascherati. Non è così che si fanno le politiche fiscali, perché significa in questo modo prendere gli spicci adesso, ma far perdere la fiducia nel fisco e nei confronti del fisco da parte dei contribuenti per il futuro. E quindi è sempre lo stessa logica di rincorrere a toppe e a piccoli argini che non risolvono il problema strutturale. Oscar. Del paese. Ecco, no, io mi sono ritirato diplomatico, ma fermo riprovazioni quello che hai detto. Quindi. Cioè, scusa, non ho capito. Ti sei ritrovato. Ma come te ne esci col ghost? Ma no, una battuta, ma perché apprezzo la tua attività di editorialista. Non anteponiamo i nostri cosi personali. Una domanda. Per capire, io mi rendo conto, quando si sta all'opposizione è ovvio aspettare le proposte degli altri e dire no. Sarebbe troppo immaginare un paese troppo ideale, troppo britannico, anglosassone, l'idea che stando all'opposizione per far capire meglio ai propri elettori e a quelli degli altri, perché poi la politica è un mercato aperto per tentare di convincere anche chi non ti ha votato della maggior bontà delle tue idee, ma sarebbe troppo immaginare che ci fossero contromanovre che facessero capire il ragionamento, da dove partiremmo, con quante risorse individuate e per fare che cosa, cioè con quali altre priorità e in maniera realistica, cioè nei governi ombra di lunga stagione politica del mondo anglosassone le contromanovre sono fatte con lo scrupolo di chi davvero poi sa maneggiare i conti pubblici e non spara delle cose senza copertura. È troppo idealistica questa idea? Allora, innanzitutto anche l'opposizione ovviamente ha un suo ruolo in sé per sé, quindi è giusto sempre e comunque che chiunque sia al governo abbia una sacrosanta opposizione che faccia in qualche modo chiarezza su quelle che sono le scelte governative e quindi apra la strada anche ad eventuali alternative. Dopodiché qui nessuno dice che sia facile stare al governo oppure che le coperture si trovano in un soffio, però sicuramente coerenza, chiarezza, trasparenza, prospettiva di paese, bisogna averla. Dove vogliamo portare questo paese? Noi abbiamo Renzi che continua a sostenere giustamente che l'austerità è un principio che fa male all'economia e quindi bisogna andare in Europa a perorare la causa di in qualche maniera sbloccare queste museruole che portano l'austerity nei nostri conti. Però poi contemporaneamente gli eurodeputati del Partito Democratico appoggiano il disegno di far entrare il fiscal compact nei trattati europei. Allora questo significa prendere in giro la gente con dolo, perché non è possibile che appartenenti allo stesso partito vadano ad annunciare delle cose a microfoni aperti e poi in Europa non ci troviamo mai con la stessa versione, salvo poi accorgercene nelle manovre successive. Punto primo. Punto secondo, l'utilizzo della finanza pubblica. Noi abbiamo speso negli anni passati e continuano a piombarci delle bombe atomiche che sono per esempio i contratti derivati, che abbiamo fatto uno studio che costano circa 8 miliardi di euro all'anno per le perdite che questi ci comportano. Questo significa aver gestito la finanza pubblica in modo scellerato. Allora qui nessuno dice di avere la bacchetta magica, però sicuramente ci sono forze politiche che hanno in sé la possibilità, perché sono fuori da determinate logiche e meccanismi, di gestire la cosa pubblica e la finanza pubblica in maniera più vicina ai cittadini, in una prospettiva di paese e non in una prospettiva di salvataggio dei soliti potenti o dei tecnocrati europei e quant'altro. Bene, grazie senatrice. Allora 800 24 00 24 per le vostre telefonate. Un altro tema che ha appassionato gli ascoltatori dalla rassegna stampa è quello del digiuno a rotazione dei parlamentari per lo Ius Soli, ma fra questi 90 parlamentari c'è il ministro Delrio, Oscar. Sì, ho visto anche i fondi, i direttori. Io devo dire che sono fra quelli scettici, perché se tu hai un problema col tuo governo e pensi che sia vitale applicare lo Ius Soli, applicare la fiducia, farlo votare, e se pensi che ti stiamo prendendo in giro, ti dimetti. Guarda, come è noto, gli scioperi della fame rappresentano nella storia politica, da quando sono nati, da quando con Gandhi poi si sono affermati con decisione, sono due armi di due tipi diversi: o sono la risorsa a cui fa ricorso chi si concepisce e si avverte come impotente di fronte ai meccanismi decisionali. Gandhi è un po' troppo scomodarlo, ma per capirci, così era di fronte all'impero britannico, oppure di coloro che sono all'interno dei meccanismi decisionali e, avvertendo il fatto di non poter compiere il passo che vorrebbero compiere, perché lo presumono come troppo pesante, con delle conseguenze troppo pesanti, si rifugiano in un comportamento eticamente segnalabile come positivo, ma che contemporaneamente non è il calcio alla sedia che tu invochi. Ecco, in questo caso è evidente che siamo in questa seconda tipologia, e che vuoi che ti dica, è una manifestazione di volontà con l'inconseguenza delle decisioni. È così, è così, è un classico della politica, non è che stiamo, non me la sento di dire che Delrio chissà che cosa sta facendo, in altre parole è un classico di chi avverte il dolore di non poter essere, guardandosi allo specchio, coerente davvero. Da Twitter: tu, Giannino e la Ruocco siete tre ignoranti sui sacchetti di plastica. C'è un grande dibattito, bene, molto sempre, sulla tassa di scopo e pubblicità, e poi ne parliamo, perché viva lo Stato che vuole i soldi, che palle. E lo stipendio minimo a Monte Carlo è 2000 euro al mese, non c'è niente da fare. Mattino. Rieccoci, cani e gatti, Oscar Giannino, Luca Telese. È una bella intervista oggi di De Laurentiis, che dice: 10 anni con Sarri, vorrei averlo anch'io Sarri, vorremmo averlo tutti. Un grande mister che ci guida, invece è il caos. Allora, sui sacchetti di plastica, già telefonate in arrivo, ma ne leggo alcuni. Un signore ci informa: qui a Verona li paghiamo da tanto tempo. Sì, ma non è il problema solo del pagarli, è l'obbligo. Qualcun altro dice: Oscar, Luca, guardate, date che quei soldi servono per aumentare il riciclaggio e impedire l'inquinamento, e quindi sarebbe una tassa di scopo. Ma noi non lo abbiamo negato, ci poniamo solo il problema di queste sanzioni e di questo obbligo e di questo prezzo fissato. Sentiamo Gennaro Latina e poi parliamone ancora. Pronto? Sì? Buongiorno sia a Luca che a Giannino. Senta, io ho 72 anni e da piccolo praticamente avevo un commercio, un genere alimentare a Napoli. In parole povere, noi avevamo l'obbligo della carta oleata, della carta imperiale, che non doveva superare un determinato grammo per vendere. Oggi noi andiamo ai supermercati, compriamo questa busta con la reclame e andiamo a fare reclame. Ma adesso la cosa che più mi odio è questa busta di plastica, che praticamente quando compra la frutta eccetera eccetera si dovrebbe pagare. Io vado al supermercato e voglio solo il prodotto delle e come cose, te lo porti via? Ma come te lo porti via, con le mani? Sono problemi miei. Sono problemi miei. Un'altra cosa voglio dire, una volta che ho avuto la fortuna di parlare con te, Luca, sentimi qua, quando vai al supermercato, specialmente qui a Latina, sai, adesso le persone che mi sentono, tu non hai idea, perché già qui c'è gente che, per non riportare il carrello indietro, lascia il carrello con l'euro dentro. Certo. Ecco, un'altra cosa, quando tu vai ai vari supermercati per prendere un fior di latte, latte, sta cosa qua. Loro ti mettono e poi ti calcolano 6 grammi di tara. Nel momento buio vai a vedere, non sono 6 grammi, ma sono 72 grammi tutto. Ma è mai possibile che noi dobbiamo farci fregare così? E ancora non è finito. Cominciò all'epoca con le bottiglie di liquori, quando ci misero la tassa, da un litro li fecero da 700 milligrammi. Adesso addirittura con la pasta, 450, questo cosa. Grazie Gennaro, sei da Asso Consumatori, fantastico, è scatenato. Ma no? La mia domanda, ma le buone vecchie buste di carta paglierina, che erano una poesia, avevano quel bell'odore, sono ecocompatibili perché si dissolvono, perché ancora ci ripetete, ma guardate che quella tassa serve a scoraggiare l'inquinamento. Sì, lo sappiamo, però non si può pagare tutto. Sentiamo Pierpaolo da Bologna. Buongiorno, buongiorno. Sì. Salve, niente, due argomenti velocissimi. Uno è quello della plastica, per quanto riguarda soprattutto l'inquinamento, che c'è stato anche dei servizi ieri sera. Io quest'anno sono stato in Egitto, sulla costa adriatica, mediterranea, quella che pochissimi visitano. Vi assicuro che in un ettaro, cioè 100 metri per 100 di terreno in Egitto, c'è la plastica buttata via, che qui ci sarà in una città come la mia di Bologna intera. Quindi se non ci risolvono queste situazioni, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma una nazione intera farà come là una piccola regione. Una roba impressionante, tutta sulla costa, quindi va tutta in mare. Certo. Detto questo, l'altro argomento invece che abbiamo detto prima è quello degli ussoli. Io credo che uno sciopero a turno faccia la felicità assoluta di Cross, perché sarà una cosa che la prenderà in giro. È una buona previsione. In eterno. Secondo, come tutti dicono, ma non è che lo dicono perché sono dei qualunquisti, questa non è neanche un'esigenza, non è una priorità, non è neanche un'esigenza. Cioè, se fanno lo sciopero della fame a turno, e tra virgolette lo metto perché fa veramente ridere, Gandhi, poveretto, se esiste là di là è la che ride, ma se lo fanno a turno, pensate cosa dovrebbero fare, no, per un piccolo problema come la disoccupazione, come la gente che si dà fuoco perché non ha i soldi da pagare le tasse? Io sono d'accordo. Oscar? Io vorrei dire a tutti coloro che difendono naturalmente il dovere dello Stato di fissare grammi, composizione chimica, tariffe e obblighi delle buste di plastica pensando che sono finalità etiche. Guardate, questa è la radio di Confindustria, io lavoro a questa radio da anni, però questo non mi fa velo nel dire le cose come stanno. Perché c'è questa norma? Per una lotta tra le aziende plastiche del settore, quelle più avanti nelle tecnologie per la produzione di sacchetti del tutto compostabili e quindi del tutto ecocompatibili, hanno invocato che fosse lo Stato a tutelarle contro chi invece ne fa con materiali non al 100% uguali a queste caratteristiche, e lo Stato ne approfitta e dice: giustissimo, per tutelare voi ecco che io indosso i panni etici e fisso prezzo, taratura, caratura, attese di entrata e così via. E sempre così. E la debolezza di pezzi del mercato che implorano lo Stato a ristabilire loro, e lo Stato ne approfitta, come ovvio. Io sono, cioè, è chiaro che sposo su. l'idea dei materiali più compatibili e così via. Non credo che questa roba debba passare per norme così asfissianti, capite? Perché comunque chi ci dice poi io voglio essere libero di portarle come diavolo voglio ha il mio sostegno, lo capisco. Cioè non posso credere che noi dobbiamo vivere in un mondo in cui è irregimentato tutto dallo Stato, dalla carta igienica fino al pacchetto delle caramelle. Ecco, tutto qua mi sembra molto chiaro. E abbiamo Sergio da Lecce. Pronto? Sì, vai. Allora, io buongiorno, io sono dipendente della provincia, dell'amministrazione provinciale. Oggi c'è lo sciopero nazionale delle province. Io non so se in trasmissione ne avreste parlato, perché comunque c'è lo sciopero delle province e delle città metropolitane. In quanto i tagli che il governo ha operato in questi anni praticamente stanno impedendo, diciamo, alle province di approvare i bilanci, e quindi molto probabilmente alcune di queste andranno in dissesto. Ora io vorrei dire solo una piccola cosa. So che l'opinione pubblica non è schierata a favore delle province, insomma, io però che ci lavoro conosco bene le problematiche. Io dico solo che gli enti inutili, visto che siamo etichettati come enti inutili, sono quelli che fanno cose inutili. E siccome le funzioni principali delle province sono la gestione delle strade provinciali e la gestione delle scuole superiori, allora o queste sono cose inutili, oppure forse bisognava spostare queste funzioni ad altri enti che magari possono svolgere ugualmente o anche meglio. Bisogna riattivarle le province, per quel che penso io, perché o esistono o non esistono. Se esistono, voglio che siano votate. Oscar. Io voglio che siano appesi per un po', senza danni irreparabili, tutti coloro che per anni ci hanno raccontato prima che erano per l'abolizione, poi ci avevano raccontato che erano abolite, perché ci hanno raccontato che erano state abolite, lo sai, no? Te lo ricordi? Sì, certo. Ti ricordi anche chi è stato, eccetera, eccetera. Ecco, dopodiché la trasformazione comunque in ente di secondo livello, in permanenza di queste funzioni, ha ragione chi dice che a quel punto però le risorse non sono più pari alle funzioni. Come la mettiamo, cara ministra della riforma della PA, con del governo Renzi e del governo Gentiloni, perché di te stiamo parlando con grande rispetto come sempre, ma anche abbiamo la memoria e ricordiamo che tu su questa storia delle province si è operata una schifosa fuffa. Ecco, diciamoci le cose come stanno, perché ogni tanto bisogna cambiarlo il tono per far capire ai politici che non tutto passa in cavalleria, nemmeno di fronte alla cavalleria dovuta alle signore. No, scusa, com'era che non ho colto bene l'intonazione? No, l'intonazione era voluta, era un cambio di tono. Che però c'è? Hai un amplificatore o ti viene proprio così? Ma no, ma io capisco, mi metto nei panni davvero dipendente delle province, perché è vero che poi per anni si sono beccati la marea montante della riprovazione pubblica, il CNEL è rimasto, capito? Il CNEL è rimasto, loro sono stati dichiarati aboliti de facto, non era vero, gli hanno levato i soldi. Adesso naturalmente la politica non può dire pubblicamente che si dà da fare, quindi passerà nottetempo, l'ultima notte della legge di bilancio, ci sarà un po' di soldi per le città metropolitane, che è ancora più grave perché doveva essere la super ripartizione delle aree metropolitane italiane, il cuore della ricrescita e della ripresa italiana, solo sulla carta esistono. Ecco, e passerà qualche spicciolo l'ultima notte, per non dirlo in pubblico, perché in pubblico si dovrebbero scusare con la cenere sulla testa, capisci? E non lo faranno mai, come ovvio. Una schifosa fuffa, Giovanni da Brescia. Sì, buongiorno, sono Giovanni, sono un operatore del settore dello smaltimento dei rifiuti. Sì. Volevo soltanto dire, salve. Buongiorno. Volevo soltanto dire, per quanto riguarda la questione dei sacchetti biodegradabili, che poi sì, si parla tanto di biodegradabile, di riutilizzo e quant'altro, però in realtà questi materiali poi non sono biodegradabili fino in fondo. No, sono biodegradabili, però finiscono poi in discarica, perché nel ciclo della lavorazione, per la produzione di compost, esatto, poi e quindi sono tutte un po' delle cose che fanno sorridere, anche il discorso del recupero delle plastiche ormai in questi ultimi periodi, poi col blocco della Cina, che perché la maggior parte di questi materiali oggi andava in Cina, è stato bloccato, abbiamo tutti i magazzini pieni di materiale e non sappiamo più deportarli. Bene, è una testimonianza che aiuta a capire, anche perché Patrizia da Genova ci dice: ma non è che state confondendo i sacchetti della spesa con i sacchetti dell'ortofrutta? No, stiamo parlando proprio e soltanto dei sacchetti trasparenti, quelli che solitamente si usano per pesare la frutta e la verdura nei supermercati e portarla alla cassa. Oscar, che altro hai visto di bello sui... Ma scusa, perché eviti di fare... Eviti questa pagina. Quale pagina? Queste meraviglie dei tuoi amici dello Stato Tassatore. E dai, quale? Io mi aspettavo che oggi parlassi di pagina 11 di Repubblica, del resoconto dei quattro scudi, dei tre di Tremonti, Berlusconi e una di Renzi. Se lo scudo è un affare, 245 miliardi ripuliti ma appena 12 al fisco. E invece mi salti questa cosa. E quali sarebbero i miei amici, scusa? Non lo so, questi qua, perché sono i tuoi amici, perché sono quelli dello Stato che prende le tasse e poi naturalmente fa gli scudi fiscali per far rientrare. E cioè, quindi io sarei amico dello scudo? Io sarei amico dello scudo? Ma tu sei pazzo? Bravo. Il pezzo allora, di Rizzo non sei amico dello scudo, sono d'accordo. Il bello però che il pezzo di Sergio Rizzo, che è fin troppo buono, cari ascoltatori, perché va letto? Perché la continuità tra sinistra e destra in materia fiscale nel nostro paese, nella Seconda Repubblica, è stata che vi dicano assoluta, chiacchiere su taglia alle tasse, chiacchiere, chiacchiere da entrambe le parti, questo è il bello. In realtà più spesa corrente e qualche stangatina. Adesso vediamo con questi nuovi 8-9 miliardi di maggiori entrate che si inventano la legge di bilancio, maggiori entrate che sono il più della copertura della manovra che per il resto è in deficit. Dall'altra parte, dopo aver detto e non fatto che tagliavano le tasse, dall'altra parte l'altro mantra, la lotta all'evasione, bibu babbe. Poi in realtà questi 245 miliardi di basi imponibili recuperate per il futuro, quindi non è vero che non valgano, valgono per il futuro, con appena 12 miliardi per il fisco, portano le firme congiunte della destra e della sinistra. Ecco, purché sia chiaro a tutti, così la finiamo da una parte di farci dividere e dall'altra, anche la mappina, e dall'altra di credere che abbiano davvero una visione diversa, perché i fatti dicono che non è vero. Però la mappina è interessante perché 2.2 miliardi tornano dalle Bahamas, 1.1 miliardi da San Marino, 1.3 miliardi Singapore, 830 milioni da Liechtenstein, 6.7 miliardi da altri stati, 1.3 miliardi da Lussemburgo, 4.6 miliardi del Principato di Monaco, 41.5, cioè quasi il 70%. Dalla da dove? Dalla Svizzera. E cos'è che ti sorprende questo dato? Beh, insomma, è un dato che dà un'idea, è sì, un canale preferenziale, direi. No, ma siccome sono anni che partono i premier, Monti, Letta, andiamo a trattare e continuano a trattare, si vede non benissimo. No, aspetta, ma trattare, cioè il regime del svizzero è stato in buona sostanza abbattuto, quello di un tempo della segretezza dei conti. Oggi con i protocolli OCSE operante sono costretti a cooperare. E il punto è che però non mi sorprende, è storicamente un dato del tutto allineato alle attese, a quel che sappiamo che il più fosse lì. E naturalmente ce n'è altro che arriva, perché lo sai che il governo sta immaginando per recuperare il nuovo gettito a estendere la volontà. Beh, no, non lo scrivo io, lo hanno scritto tutti, compreso solo. No, ma non so se lo faranno, perché vediamo. A poco dal voto diventa un'operazione preoccupante. Esatto. Vediamo. 8.45, avevamo la pubblicità, siamo arrivati ai 47, le vostre telefonate in linea, dopo la pubblicità torniamo con voi. Mattino. Tornano i cani gatti e ci arrivano un diluvio di informazioni. S lunga in Brianza usa solo sacchetti bio. Bene, Michele, caro signor Giannino, dovresti approfondire perché Conai aumenterà la tassa sull'imballaggio di cartone del 250% da gennaio. Una volta c'era chi li raccoglieva e ci campava, oggi guadagnano le municipalizzate il carrozzone che operativamente non fa nulla. Cordiali saluti, Antonio. Allora, Patrizia da Livorno. Sì, buongiorno. Volevo intervenire sul caso dello sciopero per lo via del Lidio Sessoli, del quale sono anche d'accordo, non sono contraria, ma quando ho sentito la notizia, come diceva il suo collega, mi è montata una grande rabbia. Questa è gente che deve andare a casa. Non ne possiamo più di questi politici che prendono 15-20 mila euro al mese e sono incapaci di fare delle leggi, anzi del Rio incapace completamente, e poi avere come soluzione uno sciopero della fame. Non ne possiamo proprio più. E io, una signora di 59 anni, quando li vedo oramai, sono diventata anche violenta, non ne posso proprio violenta. Più. No, violenta, ecco. No. Sì, violenta. Ma non ci crediamo, gente, signora, lei è amabile. Deve andare a casa. E vi dico altro, io ero un ex votante del PD, che mai voterò più. L'ultima speranza è rimasta i 5 Stelle. Poi alla fine non andò più nemmeno a votare, perché l'ultima speranza sono loro, che se loro sono gli incapaci, pensiamo un pochino che abbiamo al governo. Incapaci, ladri e anche disonesti, io credo. Cioè, proprio è gente che, del quale se si vedono in televisione, gli ripeto, viene una rabbia dentro che io non so come mai, perché io ero una pacifista convinta, ma ormai mi fanno questo effetto. Guardi, ieri sera è stato il boom, sono solo capace di fare uno sciopero della fame, non ho altro da aggiungere, guardi. Vedi, ecco, adesso mettiamoci paese reale. Conosciamo abbastanza Del Rio per sapere che è una persona mite, eccetera eccetera. Probabilmente a lui stesso sfuggiva il fatto che avrebbe evocato anche reazioni come queste, ferme e arrabbiate dalla signora, perché io sono abbastanza convinto. Dice: ma come, mi metto a fare un gesto così significativo e la gente si arrabbia? E il problema è che bisognerebbe riflettere prima da parte dei politici su qual è l'atmosfera in cui si cala quel tuo gesto. e l'atmosfera è un'atmosfera fortissimamente contrassegnata dal fatto che la gente non ne può più, di gente che non riesce a risolvere un problema e se la prende con qualcun altro quando invece dovrebbe cominciare da se stessi. Ecco, ma uno dovrebbe dire: voglio quella legge, domani votiamo la fiducia, la facciamo approvare, bene, se non me ne vado. Ecco, lo so, ma è esattamente quello che lui non può dire di fronte a se stesso. Lo no, so, perché che è bello avere la botte piena e la moglie ubriaca. Tiziano da Bari. Ma diciamo il marito ubriaco. Buongiorno a tutti voi. Marito ubriaco, non la il marito ubriaco. Oh. Grazie. Volevo aggiungere questo sul dibattito, le plastiche e i sacchetti. È un po' boldriniano Oscar oggi. Sì, ma è d'ottimo, non dica questo. Volevo dire questo, quindi mi riferivo al fatto che giustamente è giusto sanzionare l'esagerazione del... un'emergenza, perché la plastica ormai... Non si sente... La plastica ormai è un'emergenza. La plastica è un'emergenza, sì, questo l'abbiamo sentito. Però c'è un'emergenza anche del segnale che non ci fa capire. Ce la fa? No, niente, no, non ce la fa. No, dicevo, ma addirittura sui proverbi vuoi intervenire? Ma veramente, ma non ti facevo così boldrina. No, allora, dai, diciamo, il botto pieno e il marito ubriaco fradicio, no, così non c'è sessismo. Non, è la botte. Non c'è sessismo, il dai. Botto non dai. È la botte. Ma perché, scusa? Ma se la botte non si può dire la moglie ubriaca. Ma dai, no, la moglie ubriaca. Voglio essere ubriaco io a casa mia. Questo, no, non hai capito. Il senso non era il politicamente corretto. No, ho capito questo. Era allora, l'ambizione a perdersi una volta che a casa metto piede e non conto niente. Quindi meglio ubriaco a casa. Sto ridendo di me. Su, non sto parlando sul serio. Però di me mi piace rappresentarmi così. Cioè io sono uno spodestato. Insomma, la figura maschile, diciamolo pure, quindi altro che il contrario della Boldrini, a casa vive da decenni un processo di spodestamento che è quello a cui io vorrei sottoporre lo Stato nei confronti miei, e invece a casa mia hanno cominciato a sottoporci me, capito? Questo è, io adesso magari invece nel tuo nucleo familiare tu comandi imperiosamente. Sì, figurati, mio, no. Prendo delle botte incredibili e sono anche contestato da mio figlio. Ecco, voi due caro Oscar, avete già iniziato la campagna elettorale, bravi, ma continuate favore... così, ma vergognatevi. Infatti questo è, vergognarsi sempre, questo è il motto dell'ascoltatore qui. Non si chiama ascoltatore, si chiama interattore. Radio interattore, sì. Caro radio interattore, ma a favore di qua non stiamo facendo nessuna campagna elettorale, però idee libere. Claudio da Roma. Buongiorno a tutti, mi chiamo Claudio Melis, sono un ingegnere di Roma, libero professionista. Bene. Lo Stato vuole fare appunto queste, come si chiama, la legge di bilancio per trovare altri soldi, altri, e in qualche modo cercare di andare avanti e campare. Ma a me non sembra che questi abbiano un progetto strutturale che possa in qualche maniera cambiare la situazione, perché se in questa globalizzazione selvaggia, con il fatto che le industrie non stanno investendo in Italia, non si sta migliorando, aumentando la produzione, la tecnologia fa sì che i lavoratori siano sempre meno utili, la classe operaia sta sparendo. Non mi sembra che ci sia una visione, diciamo, d'ampio respiro, cioè a lungo termine, un progetto a lungo termine per far sì che gli introiti statali aumentino. Cioè, non, che pensano questi? Che la gente verrà sempre più tassata e loro in questo modo riusciranno a far campare un apparato statale gigantesco? Secondo me c'è bisogno di un progetto a lungo termine, di qualcuno che abbia un'idea di come fare per far sì che magari possa andare avanti. Vai Oscar, rispondi tu che abbiamo recuperato Tiziano. No, ma io non rispondo in pochi secondi con il progetto a lungo termine. Dico solo, attenti, se da una parte chiedete la risposta allo Stato, lo Stato vi dirà: ho bisogno di più soldi, vi tasserà di più. Il problema è che non è vera questa cosa, o almeno molti di voi la credono, il più della politica, ma il problema è avere priorità significa decidere dove mettere risorse nelle vere priorità, non avere 800 più miliardi da spendere come coriandoli per bonus a tempo. Ecco, io in questo sono d'accordo con lei. Poi attenzione, gli investimenti stanno riprendendo, proprio quelli delle imprese, non quelli pubblici ancora, e così via. Tentiamo di mettere un po' i puntini sugli i. La realtà non è una realtà indifferenziata in cui tutto va solo giù. Finalmente ci sono dei segnali di alcune cose che vanno meglio. Se poi ci riesce anche un po' meglio avere le idee chiare, la macchina pubblica è un bene. Ma ve lo devo dire, però, le serie storiche dicono che quando le leggi di bilancio sono fatte sotto elezioni non prevalgono le visioni di lungo periodo, perché l'elemento a breve è: quanti voti in cambio di che? Ecco. Allora è finita una lunga settimana, ma non temiate, non temete, noi torniamo distrutti, stanchi, ma carichi lunedì. Ciao! Viva lo Stato che vuole i soldi, che palle! Una schifosa fuffa!